Iniziamo a quella, una particolarmente buona per la gente che sta lavorando in questi, tra un ponte e l'altro. Allora, una bella digestiva carminativa, sì, bella aromatizzata, che dà un bel profumo, che quando si prepara, direi finocchio, sì, un 30%, sì, anice 25%, cardamomo 15%, sì, menta 30%, se fa bollire l'acqua. No, ho perso la menta, quanto, scusi? 30%. 30%, ok. Una tazza d'acqua, si fa bollire un cucchiaino da tè. Sì. Cioè no, anzi, si fa bollire l'acqua. Poi, sì, quando è bolle, si versa un cucchiaino, si lascia in infusione 5-6 minuti e poi è pronta. Con un po' di miele. Sì. Ma non le piace tanto l'idea di mettere il miele? Preferisco lo zucchero di canna integrale. Ecco, lo zucchero di canna integrale. Perché? Perché secondo la medicina ayurvedica il miele cotto, messo nei liquidi troppo bollenti, non è tanto sano per loro. E vabbè, però no. E noi siamo abituati a metterlo, loro invece consigliano di metterlo quando è temperatura quasi ambiente la tisana. Va bene. Quando non è bollente. Quindi aspettare che raffreddi un po', sì, che si, esatto, intiepidisca. Andiamo per i patiti dello sci che rientrano dopo una giornata passata sulle piste. Allora. Qua ci vuole qualche cosa di riscaldante. Io gli darei allora una bella un bel decotto, sì, con elettrococco, sì, zenzero e cannella. Ah, buono lo zenzero e la cannella. Sì. Lo zenzero è anche un po' digestivo, sbaglio? Sì, digestivo, anche la cannella è malamente digestiva. Bisogna solamente procurarci l'eleuterococco? Sì, beh, si trova facilmente, ormai in tutta l'erboristeria lo trova. Sì. O se no, se non si trovate, lo sostituite con la liquirizia. Ok. Anche è più facile da trovare forse, sì, no? Si trova anche al supermercato. E anche lì si... Questo invece facciamo un decotto, facciamo bollire l'acqua. Sì. Con dentro le erbe, sì, diciamo il dosaggio, e sì, allora liquirizia un 45%, sì, zenzero un 25%, cannella, sì, un 30%, sì, mettiamo un cucchiaio di questa miscela nell'acqua, la portiamo a ebollizione per almeno 10-15 minuti, poi si filtra? Si filtra, si lascia raffreddare e si beve. Ah, oh, magnifico! È anche digestiva, però anche tonica, mi dà piace. Calore. Se uno torna a casa che è un po' freddo, bevendo questa tisana, bello, sviluppa il calore interiore. Io la ringrazio, dottor Zambotti, ci sentiamo presto, auguri intanto. Buon anno a tutti. Grazie, buon anno anche a lei. E noi invece ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 11, quindi avremo modo di farci gli auguri fino al 31, c'è tempo. Buona giornata. Radio 24, il Natale si sente.